si può descrivere la forza di vivere e la cura delle piccole cose che a volte possono sembrare noiose e che tu mi stai insegnando. Il perché è un pericolo, chiederlo è ridicolo, e se mi trovo a dirti lascia stare, basta poco per convincerti, e lo stesso vale anche per me. E com'è cambiato negli anni il tuo sguardo, complice sempre però, e tornerà puntuale quando dovrà tornare. E com'è fare il punto della situazione e vederci accanto mentre tutto si muove. Non si può descrivere la voglia di scrivere, il dolore del pensiero isolato, che tutto un giorno possa essere finito e che io mi possa dar per vinto. E ti metti a piangere se poi mi senti fingere, io non vorrei mai provocare queste scosse che fanno male. E lo stesso vale anche per te. E com'è cambiato negli anni il tuo sguardo, complice sempre però, e tornerà puntuale quando dovrà tornare. E com'è ripercorrere le fasi tutte e capire intanto che non saranno mai tutte. Mi può capitare di sentirti nominare spesso per caso nei discorsi altrui, sensazione meravigliosa che da sola può spiegare ogni cosa. E com'è cambiato negli anni il tuo sguardo, complice sempre però, e tornerà puntuale quando dovrà tornare. E tornerà puntuale quando dovrà tornare. E tornerà puntuale.